un insieme di studiosi si sono ritrovati in qualche modo orfani di una politica economica coerentemente antineoliberista, coerentemente contro l'austerità e coerentemente applicativa della Costituzione italiana. E quindi hanno deciso di ritrovarsi e di confrontarsi ciascuno nelle materie di cui si interessa con un'ottica coerentemente antineoliberista, che significa di coerente contrasto con le classi capitalistiche e finanziarie in Italia. Quindi è un convegno di studi in questo momento. Vedo che ci sono nomi importanti come Marco Revelli, Clara Mattei, Pasquale Tridico e tanti altri. Con Marco Revelli siamo stati insieme nell'avventura, diciamo così, dell'altra Europa. Clara Mattei è un'autorevolissima autrice di impostazione antineoliberista che sta producendo importanti lavori in questo ambito. Tridico è un importante giurista del lavoro. È chiaro che tra studiosi non abbiamo verificato prima la perfetta collimanza di tutte le nostre posizioni, ma ci troviamo sulla base appunto di quanto dicevo prima della scelta antineoliberista. Ecco. Una scelta antineoliberista che nei programmi elettorali delle forze politiche, ad esempio in Parlamento, non sembra trovare sufficiente spazio? No, è chiaro. Assolutamente non c'è, ci sono sporadici sostegni a politiche antineoliberiste. Se possiamo fare un confronto ardito, che solo praticamente forse solo io faccio in Italia, diciamo che ecco, questa opportuna ma tardiva conversione della Schlein all'opposizione, all'autonomia regionale differenziata, ne è una prova, perché se noi andiamo ad analizzare nel fondo l'autonomia regionale differenziata, essa non è altra che una via regionale alla privatizzazione e alla finanziarizzazione dei servizi, e quindi in sostanza una posizione coerentemente antineoliberista è quella di non attuare in nessun modo alcuna forma di autonomia regionale differenziata, come prospetta unico in Italia la mia associazione No Autonomia Regionale Differenziata, sia in Emilia Romagna che in Italia. La prima cosa che il PD dovrebbe fare, se fosse coerentemente antineoliberista, sarebbe di ritirare la domanda di autonomia regionale differenziata già avanzata da Bonaccini, per dimostrare che il PD non ci sta a finanziarizzare e a privatizzare per via regionale i servizi pubblici italiani. Il tema dell'austerità, l'Unione Europea ha utilizzato, diciamo, negli anni scorsi l'austerità per affrontare anche la crisi del 2008, dal 2008 in avanti, poi si è resa conto che non ha funzionato, ma in realtà quel modello non pare completamente abbandonato. Direi che la cosiddetta Unione Europea, che poi in realtà è un insieme di governi ispirati e succubi di una tecnocrazia espressione dell'alta finanza e delle grandi concentrazioni imprenditoriali, sta continuando su questa strada. Non c'è segno di abbandono dell'austerità. L'austerità è totalmente confermata, così come è totalmente confermata l'allineamento e l'alleanza con la finanza e l'imprenditorialità statunitense e la loro espressione governativa, e peraltro, diciamo, è confermato in tutta Europa la grande sofferenza delle classi sociali a fronte di queste politiche. In questi giorni vediamo gli agricoltori di tutta Europa scendere in piazza per rivendicare una maggiore tutela a fronte degli alti costi energetici. Vi segnalo che anche in sanità gli alti costi energetici hanno fatto saltare e faranno saltare i conti del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi nuove riduzioni di servizi. Tutti questi temi intersecano tutte le materie dell'attività di governo, dalla politica estera, che è una politica estera di esportazione delle armi invece che una politica estera di pace, dalle politiche industriali, dalle politiche energetiche, che vedono il governo recuperare l'energia da fossili e addirittura recuperare ipotesi di energia dal nucleare, e via dicendo.